devo contare anche di quello, devo contare. Ma ero prima abituato che vado da 10.000 lire, 5.000 lire, capito? Il discorso è quello. Quando entravo in chiesa, ogni messa chi dava 5.000, chi dava 10.000 lire, allora so che c'erano. Adesso, oramai, sono tutti, c'è crisi, massimo un euro, meno di più, è tutto quello che c'è. Signori, un attimo di pianto, riprendo subito. D'accordo, d'accordo. Prima io ero abituato lì perché c'era una lira. Adesso anche 50 centesimi mi fa somma, eh? Se sono 20 persone, ognuno da 1 euro sono 20 euro, così già va bene. 20 euro la mattina, 20 euro la sera sono 40 euro al giorno. E diciamo la giornata già c'è. Ma dipende anche quanto ne si dice anche. E a parte quelle dei notti, che non le ho contate, una messa di moto sono 100 euro, perché si fa pagare 100 euro, per dire una messa, un nome, un cognome è uno, e basta. Fanno la prega davanti a te, 5 minuti, e poi si dimentica che di quello e passa un altro. Tutto quello va fatto il giorno, amico, i preti hanno studiato per fottere gli altri. Purtroppo sì. Vabbè, è ricchi, i ricchi in chiesa non ci vanno, perché poco ma sicuro, sono i poveri che ci vanno. A provare. Ci vedono qua, non vedevano le cose delle offerte che era tutto acceso, le candele. Passava una soffiata e le spegneva di nuovo. Poi volontavano, chi metteva un euro, chi due euro, capito? E accendevano. Sì, a cosa Santa Maria è così. Che non le candele dopo che te le vai, qui le spegne. Intanto l'ho fatta, gliel'hai fatta un euro per ogni candela, capito? Passa le spegne, qua c'è la cosa, non mangia. Non mangia perché non la gioco. Già lo credo, cioè, le candele costano un bellino. Allora, per risparmiare, con questa candela fa 5-6 mesi. Sì, di più anche. Sì, di più. Ecco, qua, quando c'ero io non passavo qualcosa con la borsa per la forte. Come lo pensavo in sacristia, lo trovo, guardate la carta tutta a me, a voi tutti gli spiccioli. Certo, mi qua, uscivo così io a consumare le carte. Facevi bene. A voi gli spiccioli, a te 5 euro, 10 euro, là. A te 5-10 mila lire, di allora. C'erano quelli che davano 5.000, 10.000, 20.000 lire, capito? Io la carta, andata fuori. E prima guadagnavano anche di più, adesso, per la crisi, la tagliano a tutti anche loro adesso. Ma quando ce ne vanno in chiesa già, e le offerte le vanno. E forse quando, l'unico giorno che guadagna è Natale, a Capodanno, a Pasqua. E quando c'è qualche morto basta, poi altri guadagni non ne hanno i preti, no? Tanto stipendio non se lo tocca, non preoccuparti, fino a 75 anni loro, 70 anni, 1500 euro al mese ce l'hanno tutti i giorni e stanno bene, poi basta fare una telefonata, vanno in pensione, raggettili. È stato questo che quando esce per mettere la passanza i giorni di Pasqua, che poi da un po' lontano, ma la cosa santa, sono quelli che sono di danno. E quello? Oh, io... Già guadagna la chiesa, anzi, ha guadagnato parecchio. I tempi che furono, adesso non ci sono più gli asciti di una volta, che il prete dice, signora, guardi, suo nipote così, lasci tutto a noi, alla chiesa. Allora cominciava a avere terreni, appartamenti, cose del genere, tutto intestato al prete. E qua quando io non la passata, non ti dico molto, mi passerà dalle 40 alle 50 euro. Già in casa. A parte che si lascia di là, ha detto. C'è un sacco di gente mica lascia i preti, lo sai, gente che magari non c'ha i puzzi, non c'ha nessuno, magari il nipote è quello che è per pulpire, lascia tutto al prete. Si trovano con casa, terreni, questi preti. Arrivato a 65 anni, va in pensione, si gode tutti i rimati che hanno regalato. di nuova macchina radiosa, come torrendi nuova, ho dato tutto l'affitto. E anche a Sassa dice parecchia gente, parecchi pezzi che c'hanno un sacco di soldi. Appartamenti e roba del genere, ma cosa c'è di vecchio, c'erano i pezzi, ce l'hanno. Perché il pezzo non è nato, io ce li ho i soldi. E da voi che ce li hai? Ho fatto il conto, non spendo niente. Il vino non lo regalano, quindi sono qua i giorni di Pasqua, i giorni di Natale, chi si regala l'agnello, chi si regala il porcetto, e biscotti, e un sacco di roba. Beh, come sono preso l'anziano, gli regalano tutto. Ogni festa lì viene invitato, quindi già si fa il grano. Stanno bene, conveniva adesso a fare il prete. Meno c'è il stipendio, 1.600.000 euro, cioè 1.600.000 euro, ed è tranquillo. Ogni mese in tacchi, lo stipendio è stato 65 anni, 65 anni, quindi ne andando in pensione, ed è tranquillo. Chi ti rompe le palle? Nessuno te la rompe più. Ma infatti, io ti dico, fate il stipendio. È un forte che lo fanno, non ti dico molto, molto, molto, ma almeno se minimo con le 3-4.000 euro lo fa. E quello sì. Ne fanno sì. Ci parlo dei paesi, senza contarne le città, ci parlo dei paesi. Qua non ti dico molto, perché qua c'è una di gente in chiesa. Io non ti dico molto, quelle dalle 4 alle 5 mila euro al mese li ha puliti. Anche la spesa siamo grati, mi sembra. Sugo, formaggio e pasta e cose del genere gli regalano per i pubblici, quindi la maggior parte della roba sparisce. Già lo sai anche tu. Qua quando hanno i pacchi, la maggior parte della roba è già partita, capito? Se arrivano da parenti e cose del genere, perché lì c'è un giro strano, capito? Non tanto il prete, ma le persone che sono lì, nell'associazione, capito? La roba migliore se la portano via da casa e il resto vanno agli altri. Dico sono pacchi, ma poi se la roba buona è a loro, no? E così. Oiaia. E va avanti me. E qua è anche giovane in fretta, c'è qua un 47-48 anni. Attenzione, binario 10, greco. Vai. Hai visto il TNT, come va? Come va? Tutto ok? Tutto ok? Andiamo. C'è Lucrezia. Ehi, è Lucrezia, sono. Cos'è che c'è una città che si chiama Lucrezia, Luca? Non so che si chiama Lucrezia. Un padre. Questa Borgia. L'elicottero nuovo l'ho portato giù a farlo volare, cazzo che bello, però ho sbagliato un atterraggio, si è messo di lato e sono partite tutte e quattro le tutti e quattro le pale. Doppia. Sempre di tu gente di cotti di stai tu. Devo dire che mi ero messo già nuovo, non ho distrutto niente. Se ti metti a volare con gli elicotteri devi sapere che chi va a cavallo è soggetto a caverna. E l'elicottero non è tanto facile da guidare, Alex, te lo assicuro. Infatti ce l'ho, ma non l'ho mai usato io. C'è quello piccolino che prendeva lo spin, dicevo, mi pare solo, dicevo che diceva il libro. Ho usato in campagna un paio di volte, poi ho lasciato perdere. Sì, ma questi sono giocattoli, questi sono professionali, questi che ho preso io. È un elicottero già professionale, a batteria ma professionale. Sì, vabbè. Ma di quello non l'ho preso io. Perché non sono appassionato. Cioè, mi piace la verità, però non ne ho comprato mai. Soprattutto sono con una scocca non dura, una scocca morbida, se tu perdi a terra, atterrando verso un sasso che te lo ammacca, entri il dito là dietro e la maccatura fuoriesce. Ah, capito, va bene allora. Quello che costava troppo e non mi piace distruggerlo. Mi pare che lo devo come se proprio, perché questo qua è la busta dei carabinieri, è un bel bello, c'è anche lampeggiante dietro. Va bene. Luca, adesso c'è. Lui? Io ne ho un bel pezzo di ricambio, non è che lo c'ho proprio lì. Ti sarà perso, Luca. C'era tutto poco fa, solo che io mi sono aspettato un attimino. Mi ha chiamato Simona. Capara, ma cosa è successo? Niente, voleva la porta di pranzo che stavo cucinando. Ah, tu lo sei il pranzo. Già ti compare qualche volta. Lo sei tutta liberita. Cucini tu, Ale? Sì, mi piace cucinare. La pasta l'ho fatta fare qualche volta, la carne. Mi piace cucinare a me, in modo che la cosa che non come la voglio cotta, per dire che la vuole cruda, che la vuole ben cotta, e la faccio così. Poi io naturalmente a posto di mangiare al tavolo parecchie volte mi metto un piatto e ogni tanto una taggina o faccio e basta. Ma conosce molta gente quello, conoscete in due e non mangiate insieme? Sì, che mangiamo assieme, quello sì. Lo succede anche quando fai lo zimino. Una volta tutti i riccioli, io servendo la roba, cucinando servendo, tutti i riccioli si erano mangiati, un canagù, un riccioli, pezzi misuri. E io sono rimasto senza la ragione, ho imparato. Caro sì, va bene, io cucino, ok, sono d'accordo a cucinare, però rubare il visino. Mentre sto cucinando mi ci metto la roba in mezzo al pane e me la mangio. Così a romanco, la base in me e me la video. Forse è più bello, cioè più bello cucinare la verità, meno sei tranquillo e sazio. Una volta anch'io facevo così, cucinavo pegliato e poi non me ne valevo l'accidente. Poi invece io, da quando ho usato quella tattica, cucino io, mi metto il piatto di vicino, mi metto, ogni tanto vado e assaggio. E bevo, non vino, perché il vino fa male quando stai cucinando, ti crepa. Un po' di birra ogni tanto, a piccoli sorsi e basta. Poi quando finito di cucinare, piglio mi siedo con calma, come ho sempre fatto, e posso bere la birra tranquillo. Allora, ma io non mi piace cucinare, ma quando c'è clienti magnarola, di chissà, che mangia un bene, una volta ho portato... Mi hanno detto i macellai che ci avevano arrivati un paio di agnellini e agnellini troppo piccoli, non li stavamo vendendo, quindi mi hanno detto ne stiamo dando un po' per uno, ce li stiamo dividendo per non buttarli via, che intanto non li vendiamo questi qua. E vabbè, allora lui lo sa, ha detto sì sì, glielo abbiamo detto, metto di dividerci tra noi. Abbiamo divisi, porto questo agnello dove facevo servizio ambulanza lì, cominciano a mangiare, c'è altra roba da arrostire e cose. Arrivo a sedermi a tavola, e non veniva più. Niente, ma con pezzalino è lasciato. E così la volta che ho portato quel vitellino. Hanno ammazzato praticamente una mucca col vitellino dentro. Il vitellino, anche se non era uscito fuori, era già formato e tutto. Era giubilato e gli ho portato il vitellino. Si era sbaffato. Perché tu quando devi fare cose ti conviene cucinare tu e mettere tutta la patatura alla roba prima, poi il resto lo vai agli altri. Il discorso è quello, perché fatto l'amico non ti lasciamo nulla, fatto l'amico. Ma la cosa sì, il fegato, il pezzo chiama non mi piace, il fegato, i reni, tutta quella roba lì piace, quella che non mangia nessuno. Però l'uganagù, i ricciolini, se li sbaffavano tutti, manco vi si danno. Sto chili di semino una buccia, o tu chili, no, mezzo chilo. Babbo, ma non lo spini qua, la mela fuci, ma buona, un euro e due cerchino, ma veramente guarda, burro, buona, dolce. Te lo spini. Fugia, ora dove c'è il chilo, ma veramente è buona, altro che quella, come si chiama? Quella di Galle, che è buona, spesso, ma fatta molto più buona. Melina fece. Sì, avanti. Fatto. Sì, Melinda. Una volta sono buone. Buona, veramente, mi due ti piacciono le mele, dammi. Ma più gana. Cos'è? È l'una, a me. Che è la buia? E la Melinda sei barrata. E a 9+20 si è salvato. 9+20. Non so se ti ascolta Gianni e... Ma te l'ho detto, se tu stacchi l'antenna ti sento lo stesso. Ma lo senti a Salvatore? Anni? Ehi! Ma Salvatore lo senti? Salvatore, maestra! Salvatore! Ma come tu non mi hai Salvatore? Salvatore? Salvatore sono tutti. Dov'è? Cuccini, è uno di Cappuccini. Stai così basso, io lo sento basso e basso. Bruttissimo, vabbè, di fronte a me. Ma boh, quale va basso? Ciao, Salvatore. Basso, ma... Che cosa dipende? Cosa? Quanti cattivi stai dando? Cioè dipende. Perché lo sentivo sempre fortissimo a Salvatore, infatti pensavo non fosse lui. Ma lei è un po' l'inghidetto, stavi parlando e gli hai fatto... Ti sento basso, poi hai fatto... Cioè dipende. Ma rincorsa. Dopo tu lo senti a Salvatore. 8:30, radio 1. No, ma voglio procurare un portatile. Li pure la Inter che vanno bene. Mi scusi. Fatti, 9+20, radio 5, bella, anche amplificata. La vedi benissimo. Scusa, anche tu mi ascolti bene. Allora, avanti Gianni, ci hanno contatto. No. Pronto esco, va. Dove vanno parallelo, devo trasegnare tutto, non lo so, boh, se mi va, vabbè, mi va bene, cioè non posso esagerare ovviamente, io colpo di mano. Avanti, chi è avanti? Non è avanti, vabbè, non è possibile, è portabile, sono sto dicendo confortabile. Fece bene, non lo so, fece molto bene. Chiaro, bella, bella radio. No, non c'è bene, va. sì. Sicuro, tra arrivi, quando lo portati io, le batterie durano poco e niente, non erano neanche ricaricabili queste batterie. Non avevo alimentatori questo cabine, questa portatile. E mi dava la batteria della moto. Cioè la batteria della moto andava, la carica, la attaccavo la notte, non durava la moto, però un paio d'ore per farcela. E mi dava la batteria della moto per trasmettere il ruolo importante. Non ci sono i, come si dice, non è il momento adatto.